Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La libertà solo per i seguaci del governo, solo per i membri di un partito, per numerosi che possano essere, non è libertà. La libertà è sempre unicamente la libertà di chi la pensa diversamente. Non per fanatismo di giustizia, ma perché tutto ciò che di educativo, salutare e purificatore deriva dalla libertà politica dipende da questa condizione e perde ogni efficacia quando libertà si fa privilegio. Rosa Luxemburg, politica teorica socialista e rivoluzionaria tedesca, nella sua breve opera La rivoluzione russa, un esame critico, scritta nell'ottobre del 1918, esalta il concetto di libertà universale. L'autrice sottolinea il coraggio dei bolscevichi che in condizioni difficilissime, quasi disperate, osano lanciare la parola d'ordine dell'insurrezione e contrappone questo coraggio alla pusillanimità dei socialdemocratici tedeschi che si rendono complici del militarismo del loro governo. Attivista durante la rivoluzione tedesca del 1918, Rosa Luxemburg contribuisce a fondare il Partito Comunista in Germania, ma durante la rivolta di gennaio del 1919 viene arrestata e assassinata dai soldati dei cosiddetti Freikorps, al servizio del governo di destra. La notte fra il 9 e il 10 giugno 1982, un uomo è steso sul letto in camera sua. A fianco a sé ha una cartellina sulla cui copertina ha scritto a penna Rosa L. All'interno ha raccolto articoli, ritagli di giornale, fotografie della rivoluzionaria tedesca e sta leggendo il suo libro sulla rivoluzione russa. Rosa Luxemburg lo attira moltissimo. È un personaggio forte, carismatico, una donna che crede fermamente nelle sue convinzioni e arriva a morire per esse. L'uomo ritiene che la sua sia proprio una bella storia da raccontare. Perché questo è quello che lui fa di mestiere, è uno che racconta storie, storie di un certo tipo, è chiaro, molto particolari, sia nei contenuti che nello stile che adotta. Quest'uomo è un regista cinematografico tedesco e il suo nome è Rainer Werner Fassbinder. Rainer Werner Fassbinder. Io ho la necessità di raccontare le storie che racconto. Non è soltanto un lavoro o perché mi piace stare con le persone. È proprio un'esigenza che mi viene da dentro. Sono perfino stato in analisi per un certo periodo per cercare di capire cos'è che mi spinge così prepotentemente a raccontare storie. Ma non sono mai stato abbastanza tempo nella stessa città per poter approfondire con lo stesso analista. E per ora non ne sono venuto a capo di questa cosa. Rainer Werner Fassbinder sta pensando seriamente di realizzare un film sulla vita di Rosa Luxemburg. È una donna che gli piace molto, la cui vicenda è appassionante e merita di essere raccontata e ricordata. E poi lui ha bene in mente l'attrice alla quale affidare quel ruolo. È una donna con la quale lavora da sempre, più che una collega è una vera amica. Anzi, è anche grazie a lei se è diventato un regista, se ha potuto realizzare il sogno che coltiva fin da molto piccolo, quando passa le sue giornate al cinema. Ha sì e no 4 anni, il piccolo Rainer, quando viene lasciato solo nella sua cameretta a giocare con le costruzioni di legno, mentre dalla porta aperta vede uno spettacolo decisamente poco edificante. Un andirivieni incessante di donne in abiti succinti, calze a rete e giarrettiere in mostra, scollature profonde e trucco esagerato. Fumano, masticano cicca, e il loro frasario non è proprio quello di una educanda. Sono le prostitute che vanno a farsi fare il certificato di buona salute da suo padre, il dottor Helmut Fassbinder. Il fatto è che loro abitano in Sendiglerstrasse, una via malfamata che costeggia il quartiere a luci rosse di Monaco, e il padre, un medico che ama poco la sua professione perché ha la passione della poesia, ha accettato per soldi di fornire il certificato che la legge impone alle prostitute per poter lavorare. E così, avendo lo studio in casa, l'appartamento dei Fassbinder è meta di questo pellegrinaggio quotidiano. Ma le prostitute non sono i soli personaggi strani che Rainer vede fin da piccolissimo. La sua è infatti una famiglia allargata, composta da un notevole numero di parenti della madre Liselotte, di origine polacca, che raggiungono i Fassbinder quando la Russia invade il loro paese. Il risultato è un appartamento che ha più l'aria di una stazione ferroviaria, con gente che va e viene, con zie, cugine e sorelle tutte incaricate di dare uno sguardo al piccolo Rainer quando sua madre lavora col marito, il che equivale a dire che Rainer è sempre lasciato da solo. Per lui tutto ciò è più che normale, non conosce altra realtà, non ha mai visto una famiglia tradizionale e quello che lo circonda non gli sembra affatto un mondo strano. To Rainer Fassbinder ha solo 6 anni quando la madre e il padre si separano. Ora in casa sua non circolano più tutte quelle donne strane, le prostitute che il padre medico visitava, ma in compenso lui è sempre solo, perché sua madre lavora fuori. Dopo la scuola il piccolo Rainer torna a casa per conto suo e se ne sta lì fino a sera quando sua madre rientra. I parenti polacchi vanno e vengono e poco si interessano di lui. Ma lui si annoia parecchio e così un pomeriggio che è rimasta a casa sua madre lo porta al cinema. Per Rainer è una rivelazione. Mentre siede al buio, gli occhi incollati al grande schermo che ha di fronte, l'attenzione è totalmente concentrata sulla trama e per la prima volta nella sua vita veramente felice. Il cinema è stata una rivelazione per me. Dopo quella prima volta con mia madre, le chiesi se potevo tornarci per conto mio. Lei non ebbe nulla da obiettare. Può sembrare strano perché avevo solo 7 anni, forse, ma mia madre non è mai stata una mamma nel senso classico del termine. Non mi ha mai trattato come un bambino e aveva altro da fare che stare dietro a me. Faceva la traduttrice. Però la ringrazio lo stesso perché mi fece conoscere quella incredibile magia che è il cinema. Da quella volta mi lasciava sempre gli spiccioli per il biglietto. Io entravo in sala e uscivo quando chiudeva. Certe volte vedevo anche 4 film di fila. E il cinema divenne per me la famiglia che non avevo mai avuto. Questa full immersion nel mondo del cinema influenza enormemente il giovanissimo Rainer. Mentre torna a casa dopo ore di proiezioni, è come se vivesse anche lui all'interno di una di quelle pellicole. La realtà che lo circonda non è certo delle migliori, ma lì, in quel luogo della sua mente, tra finzione e fantasia, lui si sente felice. Diventa un adolescente chiuso e solitario. È intorno ai 15 anni che scopre di preferire i maschi alle ragazze, ed è più o meno nello stesso periodo che inizia a scrivere poesie e soggetti per film. È evidente che a un ragazzo come lui la scuola tradizionale vada stretta, tanto che non riesce nemmeno a concludere il ciclo delle superiori. Fa allora qualche lavoretto saltuario, trasferendosi brevemente anche da suo padre, ma non fa che litigarci e alla fine torna dalla mamma. È un adolescente difficile, chiuso, ombroso, beve e fa uso di droghe, ma a 18 anni la sua vita cambia in maniera radicale e incredibilmente è proprio sua madre a dargli l'idea che trasforma la sua esistenza. Non ti piace studiare? Ma non sei mica cretino. Adori il cinema. Allora fai l'attore, no? C'è quella scuola, quel Friedl Leonard Studio. Dicono che è buona. Provaci, fosse mai che trovi la tua strada. Non bisogna pensare che Liselotte non ami suo figlio. Certo, non è una madre tradizionale, ma a modo suo a Rainer ci tiene. La sua sensibilità, perché lei è comunque una donna sensibile, tanto che traduce in tedesco addirittura alcuni romanzi di Truman Capote, le permette di riconoscere una luce in quel figlio strano che si ritrova. Di lui Liselotte ha capito 2 cose, che è sicuramente omosessuale, la qualcosa non le fa né caldo né freddo, e che ha una vena artistica notevole. Per questo gli consiglia quella scuola per attori di cui le hanno parlato bene. Almeno si toglie dalla strada. Rainer sta ascoltando sua madre e pensa che ha ragione. Le altre scuole non lo interessano, ma questa può aprirgli un mondo, è proprio quel mondo che lui ama di più. È così che si iscrive al Friedl Leonard Studio, dove la sua vita prende una direzione del tutto inaspettata. La classe di lettura shakespeariana è molto eterogenea. Ragazzi del liceo siedono accanto a signore di una certa età. Uomini e donne di ogni estrazione sociale si lasciano coinvolgere dalla tragedia di Otello e Desdemona, dalla passione di Giulietta e Romeo o dalla furia della bisbetica domata. Il corso, che è uno dei più seguiti al Friedl Leonard Studio, prevede anche lezioni di teatro classico, di psicologia e di comunicazione intrapsichica. Rainer Fassbinder sta assistendo a una lezione di lettura creativa e si distrae pensando a quanto la vita sia curiosa. Una classe intera di gente di tutte le età, sesso, nazionalità, legge le vicende degli eroi che la fantasia del grande Shakespeare è riuscita a inventare. Ma ciascuna di quelle storie gli ricorda una delle tante che raccontavano le prostitute in casa di suo padre medico, mentre in sala d'attesa aspettavano il certificato di buona salute che permetteva loro di lavorare. I temi dell'umanità sono sempre quelli. L'amore. La gelosia, la morte, il potere, il desiderio di sopraffazione. Le stesse cose che vivono i grandi personaggi della letteratura le raccontavano le pazienti di mio padre ai tempi di Sendlingerstrasse. Raccontare storie, mettere i sentimenti della gente su uno schermo o su un palcoscenico, mi sembrò fin dai tempi del Friedl Leonard Studio il modo migliore di esorcizzare il mio male di vivere. Nonostante Rainer senta un trasporto emotivo nei confronti dei ragazzi, più che delle ragazze, l'universo femminile lo intriga molto e lo interessa forse di più di quello maschile. trova che le donne sappiano esprimere meglio i propri sentimenti, siano più aperte e disposte a mettersi in gioco, e le sue amicizie a scuola vanno sempre più in direzione delle ragazze. Tra le sue compagne di corso ve ne sono parecchie interessanti. Ma una mattina, entrando in classe, Rainer nota una testa di riccioli che non aveva mai visto. C'è una nuova allieva, una ragazza che istintivamente lui trova simpatica. Ha gli occhi azzurri come il cielo, un sorriso smagliante e un'espressione profonda e imbronciata da bambina. Una bambina bionda. Rainer Fassbinder ha 18 anni quando si iscrive al Friedel Leonhard Studio di Monaco. Segue un corso per attori e finalmente sente di essere nella scuola giusta. Dopo aver fallito con tutti gli altri istituti che ha frequentato, sua madre lo indirizza lì, visto il suo amore appassionato per il cinema. Il giovane, che a livello sentimentale si sente più orientato verso i ragazzi che verso le ragazze, è comunque molto interessato all'universo femminile. Per lui, che ha intenzione di raccontare storie, di scrivere sceneggiature e di fare il regista, è sicuramente fonte di grande ispirazione. In effetti ha parecchie amiche, ma nessuna è proprio speciale per lui. Quando però si ritrova davanti la sua nuova compagna di corso, una biondina tutta riccioli che gli sorride con un'aria quasi angelica, il suo istinto lo porta a vedere in lei quell'amica che lui sta cercando. Si avvicina, si siede nel banco vuoto a fianco a lei e le chiede come si chiami. La ragazza risponde con una voce gutturale, inaspettata visto il suo fisico. Il suo nome è Anna Scigula. Anna Scigula. I due ragazzi si mettono a chiacchierare. Anna è un po' più grande di Rainer, ha 20 anni, e in maniera del tutto naturale inizia subito a raccontargli la sua storia. Anna non si ricorda molto bene il suo arrivo a Monaco. Ha solo 5 anni, nel 1948, quando con la madre Antonie e un altro gruppo di rifugiati polacchi arriva dall'Alta Slesia, che a quel tempo è ancora territorio tedesco. Lì in Germania il loro vero cognome, Zigula, è molto difficile da pronunciare e presto viene trasformato in Scigula, che i tedeschi trovano più semplice. È piccola Anna, e crescendo diventa a tutti gli effetti una ragazza tedesca con una passione che le nasce da dentro e che non le passerà mai. Vuole diventare un'attrice. I momenti più felici della sua infanzia sono le recite scolastiche. A casa si traveste con gli abiti della mamma o la divisa del padre, tornato dalla prigionia dopo la fine della guerra, e in scena delle piccole commedie che lei stessa si inventa. Poi, a 15 anni, chiede ai suoi di poter prendere lezioni di recitazione. Il patto che fa con i genitori che le impongono di continuare a studiare fino al diploma, lei lo rispetta in pieno. È una bravissima studentessa, infatti si diploma. Come regalo chiede ai suoi i soldi per iscriversi al Friedel Leonhard Studio. Ed ora eccola lì, seduta a fianco a quel giovane studente che, come lei, ha una passione irrefrenabile per il teatro e per il cinema. Anni dopo Rainer mi disse che quella prima volta, seduti tra i banchi di scuola, lui pensò appena mi vide: eccola, è lei che stavo aspettando. Lui aspettava un'amica e un'attrice con la quale realizzare il suo sogno, diventare un regista. Ci trovammo subito e la nostra è stata un'amicizia che, tra alti e bassi, è durata tutta la vita. Rainer e Anna frequentano insieme i corsi di recitazione, ma la loro amicizia, che si fa sempre più profonda, li porta a decidere di realizzare qualcosa di concreto. Rainer vuole girare un film. È in questi mesi che il giovane conosce Christoph Rosa, un altro aspirante attore del quale si invaghisce. I due sono inseparabili e formano un trio affiatato con Anna, che essendo anche un po' più grande diventa un po' la loro sorella maggiore. Mentre si trovano tutti insieme nella biblioteca della scuola, i ragazzi stanno sognando ad occhi aperti. Come sarebbe bello poter realizzare un cortometraggio. Rainer ha già in mente la storia, ambientata nei bassifondi di Monaco, girata in bianco e nero, una vicenda scura, tormentata, così come è lui stesso. Christoph lo sta ascoltando, vede nei suoi occhi la passione, vede come lo sta guardando Anna e con trasporto propone ai due di finanziare il progetto. Lui è ricco, può farlo. È così che viene realizzato il cortometraggio Il Vagabondo, seguito subito dopo dal Piccolo Caos, entrambi scritti e girati da Rainer e interpretati da Anna, Christoph e una loro amica, Irm Hermann. Anche Fassbinder vi recita una parte e nel secondo film, Il Piccolo Caos, coinvolge anche la madre, che vi figura con il nome d'arte di Lilo Penpite. È questa un'occasione preziosa per Rainer di recuperare in qualche maniera il suo rapporto con la madre, da sempre molto contrastato e non convenzionale. Con mia madre è una faccenda molto particolare. Io ho capito che era mia madre molto tardi, perché sono vissuto in una famiglia allargata dove non esistevano ruoli ben definiti, ma non avendo un metro di confronto con altre situazioni familiari, non sapevo proprio cosa fosse una madre. Quando poi sono stato abbastanza grande da capire, ho dovuto lavorarci molto su questo rapporto. Abbiamo dovuto lavorarci molto tutti e due. Poi con lei ho instaurato un rapporto molto simile ad un'amicizia. Questo forse è il motivo per cui compare nel mio film Il piccolo caos. I miei film li ho sempre fatti con i miei amici, perché per me un film significa entrare in contatto con le altre persone. È la mia maniera di relazionarmi agli altri. Dopo le loro due prime esperienze cinematografiche, Rainer Fassbinder e Anna Scigula decidono di fare sperimentazione teatrale. Ne stanno parlando tra di loro e comprendono quanto sia importante potersi esprimere in una forma artistica libera, creativa, fantasiosa. Il teatro può dare loro quelle potenzialità espressive che il cinema non riesce a fare per gli evidenti limiti economici. Rainer e Christoph si sono lasciati e loro non hanno più un finanziatore. I due amici entrano quindi a far parte del gruppo off dell'Action Theater di Monaco. Rainer, che è un ragazzo iperattivo, si dà subito da fare, recitando, facendo il regista, scrivendo copioni. Nel giro di due mesi diviene il capo della compagnia e realizza la sua prima produzione, la commedia Katzelmacher, dove Rainer mette veramente tutto se stesso. La storia di un immigrato greco che diventa oggetto di persecuzioni razziali, politiche, sessuali da parte del suo gruppo di lavoro. Una sorta di autobiografia nelle sue linee essenziali. Quel periodo di lavoro teatrale fu importante nella nostra formazione. Non avevamo un modello di comportamento, o almeno non lo avevamo a livello conscio. Eravamo semplicemente un gruppo di persone che avevano tutto il desiderio di realizzare qualcosa di buono, in una nuova forma di collaborazione e anche di coabitazione, perché vivevamo tutti insieme, mischiando il lavoro con la vita privata. Però qualcosa non funzionò, forse perché viviamo in una società che esige un determinato modello di comportamento, una struttura. Noi non avevamo bisogno di un capo, né io volevo esserlo, ma la mancanza di un capo portò alla fine del gruppo. In realtà, come spesso succede, le personalità forti come quella di Rainer Fassbinder danno sempre fastidio a qualcuno. All'interno dell'Action Theater c'è chi non sopporta il suo essere un leader per natura, una figura carismatica. Qualcuno è troppo geloso e denuncia anonimamente il gruppo, accusando i suoi componenti di fantomatiche attività illegali. Il gruppo teatrale si scioglie e a fianco di Rainer, come sempre, l'unica a restare vicino è la ragazza dai riccioli biondi e dal sorriso angelico, Anna Scigula. Un po' la sua amica fidata, un po' quella mamma mai avuta. Aimé des loups qui caressent les âmes de ceux qui tout en te nourrissant t'étouffent. Les épines aussi tendres que les roses t'enlèvent la liberté. A tu jamais. Destini incrociati. Destini incrociati vi trasporta oggi nella Germania dell'inizio degli anni 70 per raccontarvi la storia di una grande amicizia, quella fra il regista Rainer Werner Fassbinder e l'attrice Anna Scigula. I due si conoscono al Friedel Leonard Studio, la prestigiosa scuola di recitazione di Monaco, dove si iscrivono da ragazzi per inseguire il proprio sogno artistico. Dopo un'intensa esperienza nel gruppo di avanguardia dell'Action Theater di Monaco, finita male a causa delle gelosie che l'esuberanza intellettuale di Rainer scatena, il giovane fonda immediatamente il suo collettivo personale. Lo chiama Anti-Theater, considerandolo una forma di espressione artistica assolutamente nuova e antitetica a quelle esistenti. Lui e Anna, ma anche gli altri componenti del gruppo, vivono insieme, preparano gli spettacoli, scrivono, fanno le prove, in una sorta di comune intellettuale che ingloba totalmente le loro vite. Era una vita meravigliosa. La creatività permeava le nostre vite. L'idea per uno spettacolo, la chiave di svolta di un copione, potevano arrivarti mentre lavavi l'insalata o stendevi il bucato. Dividevamo tutto. Eravamo degli hippie e passavamo la notte a fare progetti. Rainer era un vulcano, nel vero senso della parola. Era super attivo, aveva mille idee e soprattutto sapeva tenerci tutti insieme senza il minimo sforzo. Era la colla mentale, come la chiamavo io. Il Vulcano, come Anna Scigula chiama Fassbinder, sforna in 18 mesi ben 12 commedie, di cui 4 interamente scritte da lui. Il gruppo è talmente ben affiatato che Rainer decide di ritornare al suo grande amore, il cinema. I componenti dell'Antitheater lavorano molto bene e velocemente. E soprattutto lui stesso è un lavoratore accanito, scrive le storie, definisce le sceneggiature, è producer, regista, direttore delle luci, montatore. Egli stesso un attore. E trattandosi di una comune, il suo gruppo non conosce tempi morti, si lavora incessantemente. Questo consente a Rainer di realizzare un gran numero di film in tempi relativamente brevi. Soprattutto, non esistono i molti ciak di shooting, perché le scene sono talmente tanto provate prima che al momento di girarle gli attori le replicano con grande facilità. Più di una volta, mentre in camera sua, sdraiato a letto di notte e non riesce a dormire perché il cervello continua a lavorare, Rainer sente bussare alla sua porta e Anna si sistema vicino a lui a provare una parte, o anche semplicemente ad ascoltarlo, mentre lui racconta l'idea per il prossimo film. Non era raro che passassimo tutta la notte a parlare, bere, fumare, e poi di giorno lavoravamo. Rainer era terribilmente attivo, non a livello fisico, ma a livello mentale. Sembrava non aver bisogno di dormire, il suo cervello aveva, come si può dire, un'attività continua, anche perché faceva parecchio uso di droghe. Io magari mi appisolavo, poi mi risvegliavo con lui che ancora parlava, oppure scriveva, e aveva scritto fogli e fogli e fogli. Con L'amore è più freddo della morte del 1969 inizia la stagione cinematografica di Rainer Fassbinder. È il suo primo film, ma il regista ha già moltissima esperienza teatrale alle spalle e poi il suo gruppo è affiatato, quindi non ha paura, anzi sa esattamente cosa fare. E mentre gira il primo Chuck sente di essere proprio nel posto giusto in quel momento, cioè dietro la macchina da presa. Il cinema è tutta la sua vita e lo sarà per sempre. Anche se questo primo film viene accolto con una certa freddezza dalla critica, è sicuramente un'opera più che interessante, che pone l'attenzione su un regista e su un'attrice nuovi. Sono giovani, sono poco più che ventenni, eppure sanno già il fatto loro e hanno realizzato tutto da soli, ottenendo le sovvenzioni governative e riuscendo anche ad anticipare la fine delle riprese, risparmiando una parte dei finanziamenti, che Rainer impiega subito nel film successivo. Con Lo straniero, Dei della peste e Perché il signor R è colto da follia improvvisa, tutti realizzati nello stesso anno, Fassbinder e Anna Scigula conquistano una discreta notorietà. Il successo che Rainer Fassbinder e Anna Scigula conquistano con i loro primi film in Germania permette al sodalizio di regista e attrice di realizzare ulteriori grandi successi. Tra il 1970 e il 1973 il regista firma una dozzina di film, tra i quali spicca Le lacrime amare di Bertha von Kant, che rappresenta una prova d'attrice incredibile per Anna Scigula. Mentre Rainer le sta raccontando la trama, una storia devastante che narra il rapporto tormentato tra due donne che si amano e poi si lasciano, Anna comprende che questo film potrà veramente darle la possibilità di esprimere tutte le sue capacità. Il suo è un ruolo bellissimo, forse quello che ogni attrice vorrebbe poter recitare in un film. Karim è una ragazza bellissima, della quale si innamora la famosa stilista Bertha von Kant. Karim sembra una ragazza dolce, remissiva, innamorata, ma con il tempo cambia e si rivela essere fredda e crudele. Tratta Bertha con sadismo e infine la lascia per un uomo, gettandola nella disperazione. Non piangere, Bertha. Senti, io ti voglio bene, ti amo anche, però... credevo fosse chiaro che io ogni tanto sarei andata con un uomo. Sono fatta così. E questo non ci toglie niente. Gli uomini io li adopero soltanto. Soltanto per un po' di piacere. Oltre a questo non c'è niente. Sei tu che hai sempre parlato di libertà. Hai sempre detto che non ci sarebbero stati dei doveri tra noi due. Smetti di piangere. Come vedi, dopo torno sempre da te. Il il mio cuore. Sapessi come mi fa male. È come se tu mi avessi colpito con una coltellata. Ma nel rapporto dei due amici e collaboratori intervengono due fatti destinati a cambiare per un certo periodo le loro vite. Inspiegabilmente, Anna e Rainer litigano furiosamente a causa di una banale divergenza sull'interpretazione di un personaggio. L'attrice sta male. Le sembra che Rainer questa volta non comprenda proprio, che la stia scavalcando, che non le dimostri quella sensibilità che di solito ha sempre caratterizzato il loro rapporto. Per contro, Rainer è allibito. In fondo il regista è lui, e il soggetto del film è suo, Anna è l'interprete, deve inevitabilmente dar retta a lui, che ha anche una visione più d'insieme del progetto. Non trovando un punto comune e un accordo, Anna abbandona la casa nella quale vive con Rainer e il resto della troupe. È un evento squassante per i due amici, al quale Rainer reagisce in maniera abnorme, addirittura sposandosi con un'attrice. Ma è un terribile errore, come racconta lui stesso. Sposarsi fu veramente stupido. Non ci saremmo dovuti sposare. Tutta la faccenda mi è sempre sembrata sotto una luce stranissima. Eravamo amici e siamo stati molto meglio prima di sposarci e dopo il divorzio, piuttosto che durante il matrimonio. Si scatenarono degli strani meccanismi che non ci eravamo aspettati. Una forma malata di possessività. Lo facemmo perché spinti da vari fattori. Io ero in crisi, anche per la storia che avevo litigato con Anna. E lei era influenzata dalla società che impone alle donne un marito per essere rispettabili. Rainer è molto infelice. Le azioni che ha compiuto negli ultimi tempi si rivoltano contro di lui e soprattutto gli manca la sua cara amica, Anna. Lei nel frattempo prova anche a lavorare con altri registi. In fondo è una bravissima attrice, conosciuta in tutta la Germania, tanto che la chiama addirittura Wim Wenders, con il quale recita in Falso Movimento, un film tratto da un romanzo di Goethe. Ma nonostante il regista sia tra i migliori della nuova cinematografia tedesca, destinato a diventare uno dei più famosi di tutta la Germania e ad avere enormi riconoscimenti, Anna proprio non si trova a lavorare con altri. Mentre sul set di Wenders sta pensando a Rainer. Con lui recitare ha tutto un altro sapore, la loro intesa è così grande perché non sono due che lavorano insieme, sono due che creano qualcosa di unico e irripetibile. E senza il suo amico, Anna sente di non poter dare il meglio di sé. È per questo che decide di cercarlo nuovamente, e trovandosi di fronte a lui non riesce a dire altro se non «che stupidi che siamo». Rainer sorride senza fiatare, e il loro sodalizio riprende più forte che mai. Ne nasce il capolavoro della filmografia di Fassbinder, lo splendido film Il matrimonio di Maria Braun. And that which you hear, beep, beep, beep, beep, beep, beep, are birds. And that which you hear, beep, beep, beep, beep, beep, are birds. Attraverso la vicenda di Maria Braun, Fassbinder racconta in realtà la storia della Germania dalla disfatta bellica alla necessità di sopravvivere, per arrivare infine al miracolo economico. La profondità del tema narrato, la bravura del regista e la sensibilità dell'attrice portano a questa pellicola una serie infinita di premi, tra i quali l'Orso d'Argento al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e il David di Donatello a Anna come migliore interpretazione nel 1980. I due amici sono orgogliosi di questa consacrazione internazionale, ma soprattutto sono contenti di essersi ritrovati e di poter pensare a un futuro di collaborazione insieme. Grazie al grande successo di Maria Braun, Fassbinder ha ora la possibilità di impegnarsi in quello che è il suo sogno da una vita. Ne sta parlando con Anna, che lo guarda piena di aspettative. Rainer vuole realizzare un film per la televisione della durata di almeno una quindicina di episodi, tratto dal romanzo di Alfred Dublin Alexanderplatz. Rainer lo legge quando ha solo 14 anni e rappresenta per lui un importante punto fermo nella sua vita, come lui stesso racconta. È la storia di un criminale occasionale, Franz Bieberkopf, fresco di galera, vivente in una realtà sottoproletaria. Quando il suo mentore criminale assassina la prostituta alla quale Bieberkopf è legato, lui si rende conto che non potrà districarsi dal sottomondo in cui è affondato. Decide di ucciderlo e solo l'intervento della polizia gli evita di fare una sciocchezza e di passare il resto della sua vita in galera. Fu una storia che mi toccò moltissimo e mi permise di passare indenne attraverso un'adolescenza che avrebbe potuto essere deleteria per me. Per questo decisi di farne un film, non appena ne ebbi la possibilità. Nonostante la rapidità tipica del suo gruppo di lavoro e la conoscenza profondissima del testo, Rainer lavora per oltre un anno al progetto, sempre a stretto gomito con la troupe, con gli attori e soprattutto con Anna, la sua musa e la sua più cara amica. Quella che vive è un'immedesimazione totale. Diviene lui stesso Franz Bieberkopf, scende con il suo personaggio negli inferi della sua mente, si devasta dentro e fuori, incrementa in maniera pesante l'uso di alcol e droghe e in questo annichilimento progressivo realizza un capolavoro unico. La monumentale serie TV, oltre 15 ore di film suddiviso in 14 episodi, vede la luce nel 1980. Tutto il mondo parla di Fassbinder, di Anna Scigula e del loro Alexanderplatz. E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Destini incrociati. La rappresentazione della Repubblica di Weimar che ho dato in Alexanderplatz è molto vicina a quella che è la nostra politica attuale. Ci sono molti paralleli. Certo, le mie opinioni, che sono opinioni personali, possono anche non trovare tutti concordi, ma penso che a livello globale la tendenza della nostra politica sia in quella direzione. Io continuerò ad aiutare il pubblico ad avere una certa coscienza di quello che succede per non rifare gli sbagli fatti nel passato. È la voce di Rainer Fassbinder, giovane regista tedesco divenuto famoso in tutto il mondo grazie al film Il matrimonio di Maria Braun e alla serie TV Alexanderplatz. Ma Fassbinder non si ferma. Ha già in mente un altro fantastico soggetto e decide di parlarne subito ad Anna. Come sempre, le storie che lo intrigano hanno per protagonista o coprotagonista una donna, visto l'attaccamento personale e professionale di Rainer per Anna. Ed anche in questo caso è così. Mentre sta raccontando alla sua amica la vicenda che vuole raccontare, quella della cantante Willy durante il Terzo Reich nel 1938, il regista cerca di trasmettere tutto l'entusiasmo che sente per questo progetto. Ancora una volta la parte che sta proponendo ad Anna è bellissima e lei non può fare altro che sentirsi lusingata e felice di questo connubio personale e professionale che la lega al grande regista. Il film racconta la storia d'amore impossibile tra Willy, una cantante tedesca interpretata da Anna Scigula, e il compositore svizzero di origini ebree Robert Mendelssohn, interpretato dal nostro bravissimo Giancarlo Giannini, che cerca attivamente di aiutare un gruppo di ebrei tedeschi. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale li separa. A guerra finita, Willy si reca a Zurigo, dove trova l'amato Robert sposato, e amareggiata riparte. Tornata in Germania, diventa famosa grazie alla canzone Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili. Lili Marlene è la vera consacrazione di Anna Scigula. Il confronto con la grande Marlene Dietrich è inevitabile, ma Anna ne dà una sua personalissima interpretazione. E ne esce vittoriosa, tanto che sono molti i registi internazionali che la chiamano. Anna accetta l'offerta di Jean-Luc Godard, con il quale interpreta Passion, e di Marco Ferreri, con il quale gira Storia di Piera e Il futuro è donna. Intanto Rainer sta scrivendo una sceneggiatura, la storia del marinaio Kerel che cerca suo fratello Robert nei bassifondi del porto di Brest. Tra ladri, assassini, prostitute e amori omosessuali, la vicenda quasi onirica del marinaio diviene un film estremamente crudo, Kerel de Brest, ricco di scene di sesso violente ed esplicite che divide critica e pubblico ancora una volta. Ma Rainer è già su una nuova vicenda, ancora una donna, ancora una meravigliosa possibilità per la sua amica di sempre, Anna. La storia di Rosa Luxemburg. Rainer mi chiamò. Aveva in mente di fare questo film su Rosa Luxemburg, l'attivista che aveva fondato il Partito Comunista in Germania. Era un personaggio incredibile. Era stata rapita e assassinata. E poi c'era anche un giallo sulla sua morte e sul cadavere che non si trovava. Insomma, fantastico. Sarebbe stata la mia interpretazione migliore. Purtroppo una storia che non vedrà mai la luce. Nella notte fra il 9 e il 10 giugno 1982, infatti, Rainer si trova sdraiato in camera sua. Sul letto la cartellina con i ritagli di giornale che parlano di Rosa Luxemburg. Tra le mani il suo libro sulla rivoluzione russa. Sembra dormire, ma è un sonno dal quale il giovane regista di soli 37 anni non si risveglierà più, vittima di un terribile mix letale di cocaina e sonniferi. La disperazione di tutti i suoi collaboratori è immensa, ma certamente chi non si dà pace è Anna Scigula. L'attrice è disorientata, le manca la terra sotto i piedi e da quel momento non riesce più a recitare come prima, tanto che alla fine decide di trasferirsi a Parigi, dove si dedica alla carriera di cantante. In più di una occasione, a chi le chiede cosa fosse per lei Rainer Fassbinder, risponde «la mia casa», in ricordo di una delle ultime affermazioni del grande regista. «Vorrei costruire una casa con i miei film. Alcuni sono le stanze, altri sono i muri, altri ancora sono le finestre». Ma spero che alla fine sarà una bella casa. The dimming of the light makes the picture clearer. It's just an old fire.